avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Lo so che è un tema che non a tutti fa piacere sentir trattare, però io da un po' di giorni comincio ad avere un'ossessione. Un'ossessione che si ripercuote e si riverbera anche nella mia famiglia. Quella che io, un giorno che è attorno all'11 maggio, non dovrei starmene qui a Roma. Voi dite perché? Perché se date un'occhiata su internet, ormai sono mesi che si propaga la diceria, la notizia, la leggenda metropolitana, la dilatazione di un dato scientifico tutto da verificare. Insomma, mi stanno tutti guardando con aria di commiserazione, a me che poi già sono terremotato abruzzese, come per dirmi, presto ti toccherà a te anche qualcosa del genere. E mi sto guardando, guardo in internet, vedo che veramente esiste una sorta di moto di pensiero, di serpeggiante quasi certezza, che i giorni attorno all'11 maggio Roma dovrebbe essere terremotata. Io ho anche guardato poi nella fattispecie, vedo che poi l'epicentro di questo terremoto dovrebbe essere proprio la zona Prati Nord Ponte Milvio, esattamente dove io passo la maggior parte del mio tempo libero. Quindi di fronte a questo io dovrei cominciare a organizzarmi e a capire cosa fare quei giorni, portare la famiglia in un'isola sicura, allontanarmi e stare attento e guardare a distanza, fregarmene e starmene come coloro che sfidavano i bombardamenti e andare lì dove stanno i lucchetti, le catene di moccia, e incatenarmi lì a aspettare che arrivi il terremoto. Tutto questo, questa mattina vorrei verificarlo con due fronti, dando naturalmente testimonianza di ciò che sta accadendo, anzi cercando di attingere dalla viva voce del pubblico, visto che fra di voi c'è sicuramente qualcuno che sta ponendo questo problema, che sta pensando cosa succederà l'11 maggio, cosa ci sarà a Roma l'11 maggio. Ma poi non è soltanto così, perché lo stesso filone di profezie o di previsioni o di conferme fantasmatiche di qualcosa che in realtà fa parte del corredo e dell'eredità di un noto studioso scomparso da qualche anno, ci sarebbe poi una seconda puntata ben più terribile, perché esattamente l'anno dopo, e qua corrisponderebbe con il fantasmagorico 2012, anno in cui per la profezia Maya anticipata pesantemente e concretamente dal sommo Giacobbo, dovrà finire il mondo. Beh, la stessa persona che dice che l'11 maggio ci sarà il terremoto a Roma dice anche che l'anno dopo ci sarà una catastrofe, terremoto in tutto il mondo. Insomma, il mondo comincerà veramente a finire. Uno direbbe sarebbe anche ora, ma forse un po' presto dire che il mondo finirà. Beh, 800240024, questa mattina che ho la spina dorsale completamente bloccata, non so per quale ragione, vorrei sottoporvi questo fantastico argomento. Secondo alcuni siti internet, nelle carte di Ben Dandy risulterebbero anche delle previsioni catastrofiche per il futuro. L'11 maggio del prossimo anno, sempre secondo quello che si legge su internet, un terremoto devastante dovrebbe colpire Roma e il centro Italia. Cosa c'è di vero? Cosa dobbiamo aspettarci per l'11 maggio 2011? Questo naturalmente è preso da Voyager e è la concretizzazione, trasformata comunque in fiction televisiva, ciò che in linea di massima è presente e è vivacemente rappresentato in moltissime discussioni nella rete. Ogni tanto poi di queste discussioni esce qualcosa fuori sui giornali, ma ancora nessuno lo affronta in maniera così concreta, perché in realtà di concreto non esiste assolutamente nulla. Ma non c'è niente di più facile, niente di più fantastico, niente di maggiormente foriero di sollievo che credere alle teorie catastrofiste. Esiste sempre un margine di possibilità che ogni profezia poi abbia una sua possibilità di autoavverarsi. Il fatto stesso è che si pronunci già significa che è una delle infinitesimali possibilità che si possa avverare un fatto. Ma su questo in realtà trovano tutti una propria personale concupiscenza. scienza. A tutti in fondo farebbe piacere, o tutto farebbe piacere pensare, soprattutto nel nostro paese, che accadesse qualcosa proprio a Roma, che proprio nel centro dell'Italia, nel centro della cristianità, nel luogo in cui la politica, la sua massima virulenta o più o purulenta espansione, possa accadere qualcosa che abbia un po', come tutte le catastrofi, il segno di una sorta di purga divina, di grande purificazione. Tutto nasce da degli scritti lasciati da Raffaele Bendandi, che è un signore, un astronomo, un sismologo italiano, che è morto nel 1979, personaggio eclettico, personaggio molto strano, molto singolare, che ebbe la fortuna o la capacità di elaborare una sua particolare teoria, poi ve la dirò più nello specifico, che dava l'origine dei terremoti legata a una sorta di attrazione cosmica, quindi sono i pianeti come muovono le maree, muovono la crosta terrestre, e quindi calcolando e avendo la possibilità di definire i movimenti dei pianeti, lui prevedeva anche terremoti, e qualche volta gli riuscì anche a prevedere qualche terremoto. Riuscire a prevedere i terremoti, una sfida ancora aperta. 100 anni fa la raccolse un italiano, il suo nome Raffaele Bendandi, un dilettante di genio che mise in crisi accademici e scienziati. Le sue teorie furono ascoltate, combattute, esaltate e alla fine censurate. Un genio, qui a Bologna, un ciarlatano. Chi era in realtà Raffaele Bendandi? Questo signore poi lasciò degli appunti, lasciò parecchi volumi di sue previsioni legate anche agli anni che seguiranno appunto la sua morte, e non si sa per quale ragione, mai definita, mai capita, mai compresa e sempre smentita anche da coloro che rappresentano la fondazione comunque nata a seguito della morte di questo scienziato, che sembra ci sia concretezza che esista il famoso appunto che definirebbe questa fine del mondo vicina, con un preludio di un terremoto per l'11 maggio a Roma. Dal museo di Bendandi, la direttrice, e dai documenti presenti al museo non risulta che ci fosse appunto una previsione di Bendandi, però qualcuno l'ha tirata fuori. Cosa dire? Che dal carteggio risulta che in quel periodo ci sarà un allineamento planetario. Attraverso i suoi grafici si evince che c'è la possibilità che un evento possa verificarsi proprio intorno a quei giorni. Ora io non lo so, perché non sono in grado di poter avvalorare tutte le tesi di Bendandi, perché non ha lasciato alcuna documentazione scientifica che spieghi la sua metodologia e la sua tecnica, per cui risalire soltanto attraverso i grafici che lui ha effettuato. Io questa mattina ho sciacallato ampiamente dalla trasmissione Voyager di Giacobbo varie parti, perché l'aveva trattato approfonditamente questo problema. Questo era Giampaolo Giuliani, che era l'ex tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, che era stato distaccato questo laboratorio nazionale del Gran Sasso, di cui si parlò molto al tempo del terremoto in Abruzzo, che viene intervistato sulle carte di Bendandi e in sintesi dice che non esiste nessuna previsione certa. Ricordiamo che lui comunque era una persona al centro di una accesa polemica all'indomani del terremoto in Abruzzo, perché sembra che avesse dato comunque delle avvisaglie qualcosa potesse accadere. Ora io vorrei questa mattina riportare tutto nei termini di quelle che sono le consapevolezze scientifiche rispetto a questi problemi, essendo comunque affascinato da questa sorta di furor di popolo nel cercare segni comunque in un momento in cui sembra che perlomeno alcune visioni fantasmagoriche legate alla superstizione, legate al si dice, riguardo all'esito del nostro quotidiano sarebbero state perlomeno un po' stemperate dalla razionalità che sembra dover guidare i nostri comportamenti, soprattutto i comportamenti collettivi. Ma così non è. Piace pensarlo, è bello immaginarlo, è fantastico avere questa sorta di atterrimento generale rispetto a ciò che non si conosce, a ciò che viene semplicemente mormorato, senza il bisogno e la necessità di cercare poi concrete riscontri rispetto a quello che si dice. ripeto, per una parte precipua di italiani che si muovono in rete, sta maturandosi concretamente l'angoscia che a maggio possa accadere un disastroso terremoto a Roma, che poi sarà semplicemente preludio di ciò che accadrà nel 2012, anno della fine del mondo, perché i Maya così hanno profetizzato. C'è un film che viene incessantemente rimandato nei canali satellitari di Sky, che ci fa capire come da un momento all'altro ciò potrebbe realmente accadere. Professor Enzo Boschi, buongiorno. Buongiorno. Il professor Enzo Boschi è un geofisico e presidente dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Lei, professor Boschi, di questa storia di Raffaele Bendandi avrà sentito senz'altro parlare. Sì, certo, certo. Qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che innanzitutto Roma non è sismica, cioè da tutti i dati che abbiamo degli ultimi 3.000 anni, a Roma, città di Roma, non si è mai verificato un terremoto. Ma la storia di Roma si misura millenni, come diceva appunto la buon'anima. 3.000 anni, voglio sì. dire. In ogni caso, i terremoti sono una caratteristica fondamentale del nostro pianeta. Io condivido tutto quello che lei ha detto. E quindi senza terremoti non ci sarebbe... non so, non ci sarebbero i vulcani, non ci sarebbe l'atmosfera, quindi noi dobbiamo vivere in un pianeta estremamente vivace, ma anche capace di generare la vita e farla sviluppare in tutti i modi che conosciamo. Quindi dai terremoti si difende semplicemente costruendo bene. Ecco, ma come si spiega lei, prima di entrare proprio in merito all'aspetto scientifico, che riguardo all'aspetto dei terremoti, che sono sempre stati visti nel passato come segnali della collera divina, legati comunque alla necessità di riequilibrio, comunque anche rispetto ai comportamenti degli esseri umani, l'ira degli dèi, via dicendo, anche oggi quando si parla di terremoto esiste sempre da qualche parte che spunta una persona che non è mai perfettamente collocato nella comunità scientifica, sempre qualcuno marginale lateralmente. Anche questo Bendandi, sì, pare che abbia elaborato una teoria sul ciclo undecennale del Sole, però non ha mai avuto una reale pubblicazione scientifica al suo lavoro, come se ci fosse la comunità degli scienziati che è una comunità reticente nel dire certe verità. C'è qualcuno che si muove in una zona limacciosa e liminare rispetto alla scienza ufficiale, che in realtà ha la chiave per avvertire l'umanità di ciò che sta per accadere. Io penso che la risposta lei la potrebbe dare molto meglio di me. La scienza ufficiale cosiddetta fornisce dati e informazioni che sono spesso basate sul buon senso e spesso non sono, come dire, non fanno notizia, mentre invece questi altri, come dire, personaggi, come dice lei, che vivono ai confini, dicono delle cose che fanno notizia. Per esempio, se io dico non succederà niente oggi, nessun giornale lo pubblica, ma se dicessi che sta per arrivare una catastrofe terrificante, ovviamente tutti i giornali ne parlerebbero. Quindi il fatto è questo. Tutte le considerazioni fatte da Bendandi e da altri sono state considerate dal punto di vista scientifico e si è visto che non funzionano, tutto qui. Quindi possiamo tranquillizzare coloro che hanno come l'idea che esista una sorta di tappo censore sulle teorie di Bendandi, perché non si vuole allarmare, non si vuole sapere o non si è pronti a in qualche maniera arginare questo fenomeno di Roma che salterà in aria l'11 maggio? Guardi, se fossimo in grado di prevedere i terremoti, cioè di prevedere il futuro, saremmo noi sismologi a fare le gare a chi li prevede meglio, con più precisione, eccetera. È veramente impossibile. È impossibile prevedere il futuro, prevedere l'andamento dell'economia, l'andamento della storia, l'andamento di questi sistemi complessi che appunto, per esempio, nessuno aveva previsto quello che sta succedendo nel Nord Africa, nessuno aveva previsto la crisi economica, eppure dal punto di vista, come dire, strettamente scientifico sarebbe più facile fare previsioni in questo contesto dove tutti i parametri sono sostanzialmente osservabili che non in sismologia, dove tutti i processi avvengono a profondità della terra che sono inaccessibili all'esperienza diretta. Ecco, io volevo invitare il pubblico che ci ascolta a chiamare all'800240024, soprattutto coloro che sono stati contaminati da questa idea, da questa paura, da questa ansia da questo sconcerto del fatto che comunque possano arrivare fenomeni sismici, atmosferici, cosmici che non sono previsti, o peggio ancora, che sono già previsti, che già sono studiati, che già in qualche sotterraneo dove si pensano di poter salvare soltanto una parte privilegiata dell'umanità, che poi il senso di questi film, di questa letteratura catastrofista, che in realtà è come se non ci fosse spazio per la salvezza di tutti. Il film dedicato appunto al disastro del 2012, fantastico film americano, in realtà ci fa capire che qualcuno sta preparando come una sorta di arche di Noè per salvare chi? I vertici della politica, i vertici della scienza, le persone privilegiate che si possono pagare un salvataggio. Questo è totalmente folle, è meravigliosamente immaginifico, fa parte di una fanta realtà che serpeggia lateralmente rispetto alla nostra realtà. Ma se qualcuno di voi su questo sta fondando le sue angosce, sta fondando le sue paure o sta appoggiando il suo disagio quotidiano, chiami questa mattina perché abbiamo chi può senz'altro rispondere. Le vittime si attenevano al calendario Maya, che ha predetto la fine dei tempi per il 21 dicembre del 2012. Non ci crederete. Pensavo che avessimo più tempo. Il mondo, come sappiamo, presto finirà. I Maya lo sapevano. Bibbia. È la fine del mondo, amici miei. Ecco, professor Enzo Boschi, io non vorrei coinvolgerla in ciò che non attiene comunque a quella che è la sua caratteristica di scienziato, ma vogliamo dare qualche informazione certa e concreta su quelli che sono i margini di prevedibilità di un rischio sismico, visto che su questo si basa comunque tutta la grande teoria della fine del mondo, che a un certo punto questa sorta di allineamento mefitico farà sì che succederà nella Terra qualcosa che non è mai successo prima. Su questo esiste una risposta scientifica? Da questo punto di vista la risposta è molto semplice. L'effetto che può avere un altro pianeta sulla Terra è un effetto che va come R alla meno 2, cioè la distanza al quadrato, come l'inverso della distanza al quadrato. Quindi se la Luna ha un certo effetto, basta spostarsi, si sposta ancora di qualche migliaio di chilometri, l'effetto praticamente diminuisce, finché, anche se i pianeti sono allineati, quelli che sono più lontani non hanno assolutamente nessun effetto, quindi che siano allineati o che non siano allineati è la stessa cosa. Spero di essere stato chiaro. Quindi questa storia dell'allineamento è stata affrontata negli anni per vedere se effettivamente c'era questa possibilità di effetti, e assolutamente da escludere. Quindi è semplicemente una cosa ridicola. È ridicolo che i Maya prevedono cosa succede nel 2012 e poi scompaiono, non sanno neanche prevedere. Non hanno previsto nemmeno la loro di fine. Sì, non si sono organizzati bene, cioè, insomma, è una cosa semplicemente ridicola questa. E purtroppo io condivido tutto quello che l'hai detto, in più aggiungerei il fatto che tutte queste cose prendono più piede perché c'è un abbassamento culturale notevole della meglio della popolazione, perché c'è un abbassamento notevole anche della scuola. Sentiamo Alberto, il professore ha detto una cosa molto seria, studiate un pochino di più, ferrate i ragazzi sin dalla tenera età su quelle che sono le leggi della scienza, della fisica, che regolano comunque, per quello che noi sappiamo, alcuni fenomeni, e crederanno meno alle fantasie. Alberto, buongiorno. Ma non solo la scienza e le leggi della scienza, io credo che sia proprio un problema di cultura, di ignoranza, di degrado. Noi assistiamo quotidianamente a fenomeni in cui i richiami sarebbero tantissimi. Credo che l'aspetto fondamentale sia proprio una perdita di alcuni valori morali e culturali. Guardi, io le dico, le posso fare una confessione, Alberto? Prego. Io non sono una persona che esclude totalmente il valore dell'irrazionale. Io sono attratto dalla fantasia, dalla fantasia. Per le follie, d'altronde, se vogliamo, la musica, l'arte sono anche espressioni, se vogliamo, tra virgolette, anche di follia, no? Di genio. Però quando uno deve parlare di cose scientifiche, quando uno deve parlare di cose tecniche, si deve attenere alle conoscenze. Ma lei non trova che sia singolare ma allo stesso tempo interessante come fenomeno, che i mezzi di propagazione dei pareri e delle opinioni, dei modi di pensare, che dovrebbero dare anche supporto di confronto, come appunto internet, che sembra che è a tutti gli effetti la più moderna delle maniere del comunicare tra le persone, perché è più veloce, espansa, multitasking. Faccia sopravvivere questo tipo di idea che mi sembra prelogica, lontana, antica, arcaica, fantasticamente arcaica. Questo è vero, però la mia dolce compagna dice sempre che internet sarà la nostra rovina. Forse no, non lo dica, non è così in realtà. Forse non è nemmeno la nostra salvezza. No, mi scusi. Forse è una cosa un po' esagerata, però certamente fa da eco a persone che parlano tanto per parlare. Nel nostro paese, per dire, si parla tanto di medicina, ci sono centinaia di programmi medici, tutti parlano di tutto. Siamo tutti commissari di calcio, siamo tutti medici, siamo tutti ingegneri, siamo tutti vulcanologi. C'è questa tendenza ad una estrema, secondo me, faciloneria. Non che io voglia tacitare o voglia dire che nessuno abbia il diritto di affrancarsi e di parlare anche di cose. Sì, ma bisogna dare a un certo punto una gerarchia di autorevolezza anche in questi campi, se no noi la prendiamo a ridere. Questa mattina ci piace trattarlo con leggerezza il tema, ma le assicuro che il senso di panico che emergerà poi in maniera più concreta man mano ci avvicineremo a questa data nella capitale è veramente percepibile. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il futurologo Gordon Michael Scallion, basandosi su scenari molto complessi, ha addirittura realizzato una possibile nuova mappa del mondo. I continenti non avrebbero più gli stessi contorni di oggi. Nuove isole emergerebbero dagli oceani, mentre intere zone verrebbero cancellate. In Italia rimarrebbero solo alcune zone alpine e appenniniche. La Sardegna e la Corsica, invece, formerebbero un'unica grande isola del Mediterraneo. Beh, fantastico, pensate che bello. La Sardegna raddoppiata con la Corsica, un posto meraviglioso per andare al mare, e visto che rimangono le Alpi, uno può andare comunque a sciare. Qual è il problema della fine del mondo? 800 24 00 24. So che si aprirà il cielo, come qualcuno dirà, arriverà un fulmine e fulminerà noi che abbiamo osato mettere in dubbio le certezze del grande Giacobbo, ma questa mattina mi diverte proprio parlare di fine del mondo, visto che abbiamo iniziato dando corpo alle paure, essendo mio stancato di avere persone che mi chiamano con la voce sommessa dicendo cosa farai l'11 maggio. L'11 maggio andrò a Ponte Milvio e solleverò donne, chi vorrà venire venga, e attenderemo lì la fine del mondo o il terremoto, sarà fantastico e meraviglioso. Tutto parte dalla teoria di Raffaele Bendandi, che è passata a miglior vita da qualche decennio, che però lasciò non si sa come scritto che l'11 maggio ci sarà il terremoto a Roma, e da questo siamo partiti a valutare tutte le teorie sulla fine del mondo. Mi arrivano sms inviperiti di persone che dicono che non posso dare il mio sostegno ai biechi scienziati che vorrebbero nascondere all'umanità quello che è il suo atroce destino. Non si può dire che sia un problema di cultura e scuola, mi dice qualcuno. Quando Galilei disse che la Terra girava attorno al Sole, ecco, Galilei messo sul piano di Giacobbo, non si può pensare che quelli che ascoltavano erano ignoranti per l'epoca. Il problema è che ci piace pure aver paura, che accade qualcosa di sconvolgente contro la routine. Vero, questo è verissimo. Io tutti i giorni sogno un fantastico cataclisma spazio-temporale che mi si apra una sorta di crepa nella realtà e mi ci si possa infilare dentro. Chi non ha provato un certo piacere per il nuovo quando sono crollate le torri gemelle? Beh, io tanto piacere non l'ho provato. Mara, buongiorno. Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Salerno. Ho vissuto già delle esperienze sismiche dell'80 e successive esperienze. Non previste però. Non previste, no, non previste, anche se siamo seriamente preoccupati per un vulcano sottomarino, il Massili, perché qui nella provincia di Salerno si parla, soprattutto nel Cilento, che tale vulcano sottomarino, che ha un'estensione di 70 chilometri, a breve provocherà dei fenomeni come maremoti, terremoti, anzi si parla anche di un piano di evacuazione Però si parla, l'ha letto da qualche parte concretamente scritto, o si parla perché lo dicono così in internet? Perché anche su Roma girano voci che già esistono i piani di evacuazione, che se ne stia parlando, che fanno le prove. Mi creda, guardi, io non voglio sdrammatizzare nulla, le ripeto anch'io, sono terremotato e proprio in questi giorni che stavo mettendo mano forse alla rimessa a posto della mia casetta dopo anni di immobilismo, mi chiamano gli amici, dicono guarda, ci sono nuovamente le scosse dalle parti dell'Aquila, ci ripresentiamo, perché dicono i vecchi che forse anche nel 700 ce ne fu un altro dopo il primo. È tutto vero, è tutto da tenere in conto e non bisogna mai abbandonare nessuna fonte di informazione, però io vorrei che ci fosse un pochino più di attenzione alla certezza delle fonti. Quando parlano di piani di evacuazione, secondo me, se non c'è nulla di ufficialmente comprovato, rientra nel chiacchiericcio. Franco. Sì, ciao Gianluca, buongiorno. Eccomi qui. Allora, io volevo un po', diciamo, forse aprire una prospettiva diversa, nel senso, nella discussione. Non è per prendere posizione né nel lato del razionalismo né nel lato dell'irrazionalismo. Volevo aprire la prospettiva del il punto di vista dell'uomo di fede, no? Con tutta la debita distinzione che ci può essere. Beh, è lecito, è un punto di vista rispettabile e lecito, è mica il pregiudizio laicista è ancora peggio dell'integralismo religioso. Allora, faccio una premessa, facendo le debite, no, differenze, prendendo le debite distanze tra quello che è il concetto di sofferenza, per cui c'è il massimo rispetto, e il concetto di morte, no, che è ineludibile. E io dico che qui stiamo parlando, diciamo, della fine del mondo, quindi della fine di tutti, della morte di tutti, no? E secondo me il problema non è poi tanto quando, se oggi, se domani, se l'11 maggio, se nel 2012, è il problema dal punto di vista dell'uomo di fede è come ci si presenta a questo momento. Quindi, certo, per il signore che è morto d'infarto in questo minuto in qualche parte del mondo, il mondo è finito in quel momento, per lui l'apocalisse è quell'istante, è chiaro. Logica, voglio dire, poter pensare che comunque una fine per chiunque di noi è scritta, anche se non anticipata, voglio dire, dovrebbe essere a maggior ragione uno stimolo a una condotta, passami il termine, retta, ecco. Sì, poi, vabbè, lei parla da persona, penso, immagino, di fede, con una sua etica, e dice statene tranquilli, tanto tutti, la fine del mondo come apocalisse individuale, e quella è sicuramente certa, perché ognuno sa che finirà. Quindi, una volta tranquillizzati da questo punto di vista, guardate con un maggior distacco le apocalissi generali, perché poi tanto per ognuno di noi la vera apocalisse è quando si spegne per noi il mondo. Quello che rimane fuori poi è tutto da vedere, è tutto da immaginare. Grazie Carlo. Giuseppe. Buongiorno Nicoletti. Eccomi. Allora, una praticamente dimostrata da osservazioni astronomiche, e quindi è stata divulgata tempo fa, non più ripresa, è quella che c'è un meteorite di enormi proporzioni, col suo corollario di altri più piccoli, che non si dissolverà con l'attrito dell'impatto sulla Terra. È una delle tante cose che si leggono, onestamente, sì. E lo so, però quando la lessi io c'erano anche dei riferimenti che erano verificabili della fonte. E allora il punto è che, secondo i calcoli fatti da queste osservazioni, il meteorite arriverà sulla Terra tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Lei ha questa certezza, diciamo? Io l'ho letta, non essendo un astronomo, però voglio dire, è una notizia che si può andare a verificare per rintracciare la fonte. Anch'io ho letto degli UFO, ho letto delle scie luminose, ho letto tante cose, nel senso, non tutto quello che si legge poi in realtà è una certezza di quello che avverrà. Ha ragione, però c'è anche un altro fatto che si può collegare a questo, cioè, stanno costruendo in orbita geostazionaria, hanno già costruito 60 loculi abitativi. Ma quali sono queste sue fonti per sapere dei loculi? I loculi abitativi, tra l'altro, è un'azienda italiana che fa il modulo, quello interno, che è un'azienda che sta dalle parti di Torino, non so se è di proprietà Fiat o di quale altra, cioè, Telenia, non so dire. La Fiat sta costruendo dei loculi abitativi? Sentite anche su radio, sì. Sono già in orbita questi? Sì, ci sono già 60 loculi abitativi pronti. Ma per metterci vivi o morti? Con delle prenotazioni, sì, appunto perché... Per capire bene, i loculi per mettere vivi o morti? No, il loculo è attrezzato affinché possa ospitare per un tempo indeterminato delle persone vive che si debbano anche riprodurre, debbano stare... Ma cosa mangiano? Di cosa vivono? Ma oggi ci sono prodotti di sintesi, no? In più è possibile fare all'interno delle coltivazioni in maniera tale che una piantina si riproduca come avviene in natura. Cioè una specie di arca di Noè nello spazio. Esatto, ed è una cosa che lei può verificare tranquillamente perché ci sono notizie. No, mi documenterò, io ho enormi lacune, questa mi mancava sinceramente, ne avevo viste tantissime cose così, ma erano film di fantascienza. Se lei mi dice che lo stanno costruendo la realtà, io non ho nessuna, mi creda, lo dico sinceramente, nessuna ragione di mettere in dubbio quello che dice, però devo documentarmi, mi dia tempo. Noi continuiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0 7.9. Un'attività così non si registrava da anni. Sulla mappa non compaiono onde S. Per terremoti di entità 9.1 è crollata con un sussulto di entità 7.9 che ha scosso Seattle questa mattina. Una sacca di gas sotterraneo è esplosa a 15 metri sotto il manto stradale, causando il crollo dell'intera superficie del centro cittadino. Dal Pacifico alla costa è tutto bloccato a causa dell'inondazione. Alcuni escursionisti sono rimasti isolati presso Point Defiance Park, anche il ponte sul Tacoma. Questo è il film Magnitudo 10.5, un altro film catastrofico terremotante. Oggi vedo un bel reportage di Alberto Mattioli sulla Stampa, parla di questo paese francese, Bugarach, che è l'unico paese che si dice perlomeno che sopravviverà all'apocalisse del 2012, perché era un paese frequentato dai catari, ci sarebbe l'arca dell'alleanza, il tesoro dei templari e via dicendo. Diciamo che lì probabilmente Giacobbo già si è prenotato uno chalet per il resto della sua vita, però è il luogo in cui tutti dicono che rimarrà come unico luogo intatto dopo la grande apocalisse, la fine del mondo. Io vedo che cominciano a arrivare serie concrete conferme di quella che era la mia premessa iniziale. Nell'epoca in cui la comunicazione è portata a livello di quasi divinità, in cui tutti possono comunicare qualunque cosa, in cui siamo interconnessi con un'infinità di altre persone, abbiamo relazioni e connessioni che mai avremmo pensato di poter mantenere in nessun'altra epoca della nostra esistenza su questo pianeta, ancora rimangono concretamente ancorati gli uomini ad alcune loro certezze che in realtà sembrano appartenere a un altro mondo, non a questo mondo. Ma guardate, non sono scandalizzato di questo, per me è una prova concreta che ancora l'umanità non si è per nulla lasciata corrompere da quella che è la serpeggiante demoniaca tecnologia, ma trova con la tecnologia un rapporto di parità. L'uomo porta tutto il suo bagaglio di credenze, superstizioni, di umanità, di fantasia, la tecnologia gli permette di mantenere in vita come fosse una sorta di reliquia della tradizionale forma dell'umanità questo tipo di corredo. Carlo, buongiorno. Buongiorno, io sono entrato nella conversazione, diciamo, perché ritengo effettivamente che esista la necessità, proprio per questi elementi che lei ha portato in evidenza durante la sua trasmissione, di un giornalismo divulgativo serio per riuscire a mettere a posto, diciamo, i vari termini del problema. Io volevo soltanto contribuire a Boschi una considerazione che mi sembra possa dirimere o almeno organizzare un dibattito più serio, al quale mi dichiaro disponibile, evidentemente. Lei pure, perché Boschi abbiamo parlato, è un geofisico, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Sì, ma infatti io sono laureato in fisica, sono fatto professore di fisica all'università e poi ho avuto la mia vita professionale. Sì, siete colleghi. Ma sono in grado di poter contribuire seriamente, se questo avesse un taglio giornalistico divulgativo che ritengo necessario, oltre che essere buona la fonte, la sede, che è il Sole 24 Ore. Sì, però posso dire una cosa, professore, il taglio che do questa mattina, mi sembra evidente, è sulla propagazione e divulgazione dei dati fra scientifico e parascientifico. Mi scusi, in effetti lei ha colto giusto e solleva un disordine mentale da parte degli ascoltatori che è dovuto alla evidente interferenza tra le ansie personali di fronte a cose che avvengono e istituzioni che dovrebbero prendersi cura di. Ora, quello che volevo dire... Lei di Raffaele Bendandi, di Raffaele Bendandi sa qualcosa che... Sì, certamente era anche un concittadino, quindi è una persona, però fa parte delle cose non scientifiche nel senso serio della parola. Quei due elementi che le volevo dare della scienza più recente che dirimono il problema sono questi. Uno è, si riferiscono tutti alla dinamica dei sistemi complessi in natura. Sistemi complessi che abbracciano non solo il mondo fisico, quindi anche i terremoti, ma anche l'economia. Ci sono stati premi Nobel ormai in psicoeconomia proprio per questo. Si può sintetizzarcelo perché sennò... Sì, allora guardi, le due teorie sono, una è quella di Ilya Prigogine, di cui lei certamente non sa nulla. Non sa nulla. Però avrà sentito parlare. No. È un termodinamico. Sì, però deve sintetizzarmelo in 30 secondi, sennò devo segarlo, mi scusi. Allora, è una teoria matematica che descrive appunto anche il perché matematico di quelle previsioni di Ilya Prigogine. Si dice che i sistemi complessi siano in uno stato permanente di instabilità proprio in quanto vivi, vitali. Quindi esiste, se riesco a decodificare, visto che sennò diventa una trasmissione di altro tipo, apprezzando pure il suo intervento, esiste un margine amplissimo di imprevedibilità che nemmeno gli scienziati possono assicurarci di avere la chiave comunque di soluzione. Gino, velocemente. Sì. Sia sintetico. Buongiorno a tutti voi e complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Io sono Sarto, lo seguo dalla mattina alla sera sempre. Vado al punto velocissimo. Niente, il punto è questo, che tutte le persone che ascoltano un po' la teoria dei Maya, Bendante, ma noi bisogna considerare anche 8 milioni di persone che vengono a visitare Padre Pio, certo. E che è un santo che ha guarito tante persone, penso che abbia considerazione, no? Certo. E il libro che lui ha scritto, così fatto Padre Pio, a pagina 194, sì. Gli è stata fatta domanda... quando ci sarà la fine del mondo, e lì c'è scritto, lui ha detto che non siamo nemmeno alla metà della nascita del mondo, non siamo nemmeno alla metà, quindi ci rassicura, Padre Pio ci rassicura. Padre Pio rassicura. È perfetto, vede Gino, dà un'altra chiave della soluzione. Bruna De Marchi, buongiorno. Buongiorno. Bruna De Marchi è una nostra amica, sociologa dei disastri di cui usufruimmo ampiamente ai tempi del terremoto in Abruzzo. La richiamo nuovamente in causa perché stiamo vivendo, attraversando un nuovo tipo di psicosi, non preterremotale, ma basata su, come lei ha potuto sentire, su un'infinità di supposizioni che poi non hanno né concretezza scientifica né nessuna ragione di esistere. Si spiega lei in qualche maniera l'idea di questo nuovo terremoto romano, di questa onda apocalittica del 2012? Non ne parlammo al tempo dell'Abruzzo perché avevamo una concretezza di cui parlare. Ma lo spiego nei termini in cui l'ha già spiegato lei, cioè noi ci portiamo dietro una serie di credenze o di convinzioni che poi rielaboriamo nel momento e con le tecnologie che sono disponibili. Però io volevo puntualizzare un'altra cosa, se mi consente. Certo. E cioè questo discorso che faceva il professor Carlo prima, a parte che appunto se si deve parlare di divulgazione non se ne può parlare in questi termini, e lui parlava di un disordine mentale degli ascoltatori. Però se mi consente, io vorrei parlare di un disordine mentale o forse di un disordine organizzativo anche delle istituzioni responsabili, perché a parte la fine del mondo ci sono una serie di disastri annunciati, no? Di cui non si può dire il quando e neanche forse precisamente il dove, ma sicuramente si sa, e la reazione è sempre o di rassicurazione, che è contraddittoria, perché siccome hanno detto gli scienziati c'è un'incertezza che c'è, allora come è contraddittoria la conferma, così è contraddittoria la rassicurazione. Quindi la comunità scientifica presta il fianco a questa ambiguità. Sì, adesso è un discorso interpretativo, ma secondo me in molti casi anche recenti sì si è visto la comunità scientifica e anche le istituzioni preposte, diciamo, no? E ripeto, sarebbe un discorso lungo e articolato, però c'è un problema che è da tutte e due le parti, non è solo dalla parte degli ascoltatori sprovveduti, diciamo. E quello che mi colpisce sempre, a qualunque nuovo disastro, ma sia di tipo fisico ma anche politico, la prima reazione responsabile a questa era assolutamente imprevedibile e inimmaginabile. immaginabili, dalla crisi in Libia fino ai terremoti. Quando allora, non è sì, poi così al 100%, lo sappiamo. Non è vero, cioè chiaro non si sa il dove e il quando preciso, ma che per esempio l'Italia sia un paese sottoposto a infiniti rischi di tutti i tipi si sa, quindi delle attività di prevenzione e quindi una divulgazione costante, continua su quello che davvero si può fare, che è un certo tipo di atteggiamento verso il territorio, eccetera, eccetera, questo viene fatto così occasionalmente. Quindi quando se ne parla? Quando c'è un annuncio catastrofico oppure quando c'è un evento catastrofico, ma non c'è una politica costante di educazione, prevenzione, divulgazione. È stato puntuale, diciamo, e provvidenziale il suo intervento, Bruno De Marchi, perché sennò alla fine sembrava che noi portassimo la bandiera di qualcosa o di qualcuno. E quindi il fatto che un'incertezza c'è, perché anche c'è una non pronta reazione nel dare risposte di fronte anche alle paure, di fronte anche alle incertezze collettive. Grazie e ci sentiamo domani. Tous les deux enlacés.